Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Debs e Olga. Non è una novità che in Italia ci sia un problema di razzismo, ma anche alcuni aspetti delle critiche antirazziste dovrebbero essere spurie da caratteri paternalisti, che vedono i migranti solo come vittime e individui da proteggere, e mai come soggetti attivi o potenzialmente rivoluzionari. Proprio a febbraio ricorre l'anniversario della morte di un immigrato anarchico italiano in Argentina. Viene dall'Abruzzo, ha lottato per i suoi ideali antifascisti dall'altra parte dell'oceano, era anarchico e la sua patria era il mondo intero. Nel 1925 l'Argentina è il paese che ospita la comunità di immigrati italiani più grande del mondo e si prepara a festeggiare il 25esimo anniversario della salita al trono di Vittorio Emanuele III. Al Teatro Colón di Buenos Aires tutto è pronto per la festa, allestita dalla delegazione del fascio. La banda si appresta a musicare l'inno di Mameli, mentre le dame e i signori borghesi scalpitano impazienti dentro i loro vestiti migliori. La marcia parte e all'improvviso, dalle prime file della platea, si alza un grido: «Assassini! Ladri! Viva Matteotti!» Corredato da una fitta pioggia di volantini che investe le guardie fasciste. Il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti viene ucciso da una squadra fascista, reo di aver denunciato brogli elettorali e di essersi contrapposto al regime. La caccia all'uomo ha inizio, volano cazzotti e spintoni. Nel parapiglia generale un ragazzotto biondo comincia a gridare il contenuto di un volantino. Santificatori della monarchia sabauda, avete dimenticato che proprio sotto il regno di Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e volontà di pochi re d'Italia, sorse, si alimentò nel sangue, quella cozzaglia di briganti che si chiamano i fascisti, con tutti i suoi domini, i Filippelli, i Rossi, i Due Vecchi, i Ragazzi, i Farinacci, e che trova in Benito Mussolini la più precisa e perfetta raffigurazione di tutte le infamie. Glorificatori della monarchia, appuntellata dal pugnale dei domini, scrivete nella storia della Casa Savoia questo nome glorioso. Matteotti! Ricordate i 700 assassinati nel 1898 dai cannoni di Umberto il Buono. Viva la mano di Bresci! Il biondo del Teatro Colón di Buenos Aires si chiama Severino Di Giovanni, è arrivato in Argentina da meno di 3 anni ed è già entrato nei registri della polizia bonaerense a seguito di questa azione. Nel 22 ha 21 anni quando lascia l'Abruzzo e si imbarca per l'America con la moglie Teresina e i suoi figli. Non sogna il nuovo mondo, sa che per quelli come lui la vita è dura su entrambe le sponde dell'Atlantico. Decide di partire perché non tollera l'avanzare del fascismo e il crescere della repressione nei confronti degli anarchici. Oltreoceano diventa presto uno dei massimi esponenti della corrente illegalista dell'anarchismo argentino. Sostiene la campagna internazionale di solidarietà agli anarchici Sacco e Vanzetti, con gli articoli pubblicati sul suo giornale Culmine e con ripetuti assalti alle banche. Crede ferventemente nella legittimità di queste azioni. I soldi ricavati dai colpi messi a segno servono per finanziare il sostentamento delle famiglie dei compagni arrestati, la propaganda libertaria a mezzo stampa e il suo ambizioso progetto di pubblicare l'opera completa di uno dei suoi autori preferiti, il geografo pacifista e anarchico Élisée Reclus. Solcando le strade degli espropri e dell'illegalismo di terra argentina, Severino incontrerà diversi anarchici europei, tra cui Bonaventura Durruti, protagonista della guerra civile spagnola del 1936, con il quale condividerà alcune azioni. Ma non tutto il movimento anarchico argentino accetta le pratiche illegaliste di Severino, men che meno quando queste provocano morti e feriti innocenti e inaspriscono la repressione nei confronti degli anarchici. È il caso della bomba alla National City Bank, 23 feriti e 2 morti, e dell'ordigno esploso al consolato italiano, 9 morti, di cui 7 fascisti italiani e 34 feriti. A seguito di queste azioni, Severino diventa il nemico pubblico numero uno della Repubblica Argentina e viene violentemente attaccato da alcuni esponenti del movimento anarchico bonaerense. Braccato dalla polizia e consigliato dai compagni, decide di fuggire dall'Argentina, destinazione Francia. solo che la ragazza di cui è innamorato, America Scarfò, non è ancora maggiorenne e non può lasciare il paese senza l'autorizzazione dei genitori. Severino mette in scena un'opera buffa che si prende allo stesso tempo gioco della morale borghese e dei dogmi cattolici. Convince un compagno anarchico, Silvio Astolfi, a fidanzarsi per finta con America. Pochi mesi più tardi, il falso matrimonio si consuma. Ora, con il consenso del marito, la sposa può espatriare. Il loro viaggio di nozze dura il tempo di una corsa in macchina per arrivare da Severino, che li aspetta fuori città con delle rose rosse in mano. In questo periodo, nonostante il cerchio intorno a lui si faccia sempre più stretto, Severino trascorre probabilmente i mesi più sereni della sua vita insieme ad America. È un passo dalla fuga e dalla rinascita in Francia, dove i compagni italiani espatriati lo aspettano. Ma accade un imprevisto. Il fratello della sua compagna viene incarcerato. Severino non se la sente di fuggire in Europa, senza aver prima liberato il compagno di idee e di tanti corpi. Insieme a Paolino Scarfò, fratello di America, tenta l'ultimo colpo in terra argentina, ma fallisce. Il tempo stringe e a peggiorare la situazione ci si mette l'inasprirsi della repressione dettata dalla conquista del potere del dittatore Uriburu. La sera del 30 gennaio 1931 Severino si nasconde nella tipografia di Gennaro Buontempi. Poco dopo la tipografia è circondata dai poliziotti. Inizia così una corsa forsennata, seguita da una sparatoria che costerà la vita a una bambina e a un poliziotto. Anche Severino è a terra ma non è morto, forse si è sparato da solo, forse l'hanno colpito. Il giorno successivo viene processato. La mattina del 1 febbraio 1931 sembra di essere tornati indietro di 6 anni, a quel teatro Colón allestito a festa dei fascisti. Gli invitati sono gli stessi, dame e signori borghesi, che scalpitano impazienti dentro i loro vestiti migliori. I militari argentini preparano il palcoscenico. Severino entra in scena, risa e scherni, a gambe e braccia legate. Lo legano alla sedia con delle corde per evitare che il cadavere si affloscia a terra una volta colpito a morte. Il plotone si schiera davanti a lui, un ultimo grido: viva l'anarchia! E si chiude il sipario. Gli spettatori tornano nelle loro case accoglienti. E intanto la storia di Severino vola da una parte all'altra dell'oceano. Il giorno dopo, nello stesso modo, ammazzeranno Paolino Scarfò. Le sue ultime parole saranno le stesse di Bartolommeo Vanzetti. Signori, buonanotte. Viva l'anarchia. E con queste riflessioni vi salutiamo e vi invitiamo a visitare il nostro sito www.casos.org. Alla prossima puntata.